Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Le 8, 18 minuti e 45 secondi, questa è la terza parte di 24 mattino di giovedì 15 ottobre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Più avanti nel corso della trasmissione parleremo del pubblico impiego che in questa fase di recrudescenza della pandemia resta in smart working e la paura, magari in certi casi anche piuttosto fondata, che le pratiche si rallentino, che gli uffici non funzionino, tanto per le imprese quanto per i cittadini. Lo faremo con la ministra Dadone e poi con Sabino Cassese. Se vorrete intervenire, l'800 24 00 24 è qua per voi, insieme al 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio e per le vostre voci. È il momento dell'appuntamento con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. Eccomi, buongiorno a te, come stai? Abbastanza bene. Io vorrei partire con te oggi dagli eroi. Chi sono gli eroi? Sono i medici che nei periodi di marzo, aprile, celebravamo su tutte le pagine dei giornali, raccontati in mille pezzi pieni di retorica anche, no? A volte. Non mi fare scattare i nervi, perché oggi ho letto su Libero, anzi che dà meritoria l'attestata a questo, che sono state avviate nei confronti di 300 medici cause civili di riparazione per quello che hanno fatto. Ma insomma, almeno mettere i medici al riparo, cioè questi fanno gli eroi, sono morti in una quantità inverosimile e poi arrivano pure le cause civili. Insomma, vediamole bene queste cause civili. E speriamo che non sia un andazzo. Prima sì, li si porta in corsia a fare gli eroi, loro, gli infermieri e tutti coloro che danno un aiuto in momenti di emergenza, e poi gli si riversa addosso, sì, anche perché, come sai, la giustizia italiana lascia molto a desiderare. Oggi, guarda, noi adesso, io seguo il metodo Spezia, invece di fare ogni mattina un sermoncino sul virus, tanto qui si è capito che la storia è lunga, vediamo fior da fiore delle notizie. Innanzitutto l'editoriale del giorno, un editoriale davvero bellissimo, quello sul Corriere della Sera di Gian Antonio Stella, e ti leggo un punto. Dice, lui si ricorda, Stella, un formidabile archivista, che il primo luglio il ministro della pubblica istruzione annunciò, tra virgolette, è stato costituito un cruscotto informativo che consentirà di poter definire il distanziamento e di rendere evidenti i casi in cui gli spazi non risultino sufficienti. Cruscotto informativo, lui racconta che poi sì, alcuni giornali specializzati, tutto scuola, stanno martellando. Ma che è sto cruscotto informativo? Solo tu puoi sapere dov'è finito questo cruscotto informativo. Dov'è il cruscotto informativo? Già, non ma che, ma c'è, ed è una cosa sul governo, insomma tutti i giornali si rendono conto che sì, adesso si ricomincia il tiro al bersaglio su Fontana, che sicuramente ne ha fatte più di Carlo in Francia, adesso è accusato pure, non ho ancora ben capito come, di collusioni con l'Andrangheta, ma però cioè, il governo ha perso questi mesi estivi in una rilassatezza che non era adeguata, insomma si è comportato come se la cosa stesse per finire e quelle di quest'estate fossero ultimo avvisaglio. Nel frattempo poi si annunciano che da gennaio questa volta partono veramente i licenziamenti e saranno dolori, cioè è sì, finito il blocco dei licenziamenti. Il amministratore delegato, presidente di Italo Cattaneo, non so bene cosa sia, dice che senza i soldi promessi loro fermano i treni. E Bonomi, presidente di Confindustria, dice, io l'ho trovato tutto condensato in una pagina sul Messaggero, che se si danno i soldi all'Italia senza neanche conoscere il piano, già l'Italia ha divorato tutto ai tempi in cui si conoscevano i piani, adesso si chiama ITA, per la precisione, è una pazzia, sono soldi buttati dalla finestra. Sì. dati in mano a un consiglio, Paolo, mi permetti, perché così lo ricordiamo ancora una volta, dati in mano ad un'azienda, la nuova Alitalia, che avrà un CDA allargato perché sostanzialmente se lo sono spartito le forze politiche, iper lottizzato, e il tutto mentre Andrea Crisanti, che a questo punto è la voce della scienza più autorevole, perché è quello che riesce a guardare più lontano. A me lui e Massimo Galli sembrano quelli più... Massimo Galli nella sua pacatezza e Crisanti nella sua visione, anche se talvolta non sono d'accordo neanche loro due. Insomma, dice che a Natale è molto probabile si faccia un lockdown. Del resto tutti i paesi, ha cominciato Israele, a fare dei mini lockdown durante le feste. E comunque è probabile che ristrettezze, basta guardare a quello che succede a Parigi, non si capisce perché non si guardi ai paesi stranieri e non si cerchino di fare in anticipo delle cose che sono limitate ma che evitano appunto il lockdown. Sì. Basta, voltiamo pagina. Senti, portami sulla storia, parliamo della storia che appassiona tutti e due, la vicenda del cardinale Becciu del Vaticano. Oggi è pieno di roba, a partire direi da questa intervista meravigliosa di Cirino Pomicino a pagina 23 del Corriere della Sera. Cirino Pomicino, ben conosciuto dagli italiani, l'ex ministro e tuttora brillante uomo politico, sì pure di seconda fila, dice che lui l'ha conosciuta benissimo, la Marogna, e che era un pulcino bagnato, una donna, pulcino bagnato è l'espressione sua, una donna tanto cara che lui la raccomandò a un ex boss del suo partito, Lorenzo Cesa, che se ne occupò ma non riuscì a trovare un lavoro, finché lei ha trovato questo lavoro. E allora cosa fecero i due? Le chiesero di intervenire da Becciu perché li ricevesse, perché dice: ma che ci è andato a fare da Becciu? Volevamo parlare di prospettive del mondo cattolico, una cosa divertentissima per i non detti, per quello che si lascia capire, però la Marogna è protagonista anche perché vengono fuori, ma non dalle indagini, viaggio a Dubai, Ibiza, hotel 5 stelle a Istanbul, appartamenti o case da 1 milione, e soprattutto la cosa che più mi ha colpito è che c'ha nelle sue, non so, sul letto un bambolotto vestito da cardinale. Sì. Qualche giornale ne pubblica la foto, è stupendo il bambolotto cardinale. È veramente un dettaglio. Pubblicata, foto pubblicata da lei stessa sui social network. Sì, su Facebook, credo, certo. Sì, sì. Poi l'altro grande caso del giorno, sempre tra le righe, spesso non in prima pagina, è il caso Shalabayeva. Il caso Shalabayeva, nessuno se lo ricorda probabilmente, che nel 2013 fu presa lei in quanto moglie di un dissidente kazako su ordine del Kazakistan e riportata nel Kazakistan, poi fu liberata, riportata in Italia, e allora si fa il processo per questo rapimento, strano sequestro di persone, e hanno condannato con pene più severe di quelle chieste dal pubblico ministero due personaggi enormi della polizia. Uno è Renato Cortese, che è il questore di Palermo, ma è un personaggio quasi leggendario perché ha arrestato, Provenzano nell'aprile del 2006, Brusca, Spatuzza, Aglieri, Spera, Agricoli, cioè ha arrestato tutti i principali boss mafiosi. Adesso si vede arrivare una pena, sia pure in primo grado, ma che lo escluderebbe da qualsiasi lavoro, forse lo manderebbe addirittura in galera. Lui era capo della Mobile di Roma all'epoca ed è stato condannato a 5 anni. L'altro è Maurizio Improta, che era il dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Roma, oggi è capo della Polfer, della Polizia Ferroviaria, anche lui condannato a 5 anni. La cosa incredibile è che questo sequestro, così vogliamo chiamarlo, prelievo di loro questa donna dalla residenza fatto romana. Per capriccio, da quello che si vede dalla sentenza, quello che si sa, l'avrebbero fatto per capriccio, perché siccome non c'è un mandante, lo dico non per indicarlo come mandante, ma il ministro dell'interno era Angelino Alfano, poi c'erano dei loro superiori, vengono condannati così, con delle pene severissime, come se una mattina si fossero svegliati Cortese in Prota e si sono detto: sai che facciamo oggi? Andiamo in questo librino a casa al Palocco, non so dove, e arrestiamo la Shalabayeva e la rimandiamo. Ma com'è possibile che una sentenza che colpisce due benemeriti, non è la prima volta, perché anche gli uomini che arrestarono Ucurto, arrestarono il grande capo della MAV, Totorina, io lo chiamo confidenzialmente Ucurto, certo. E anche quelli finirono tutti nei guai, ma vabbè, però almeno lì la costruzione era più articolata. Ma questi due vengono condannati senza un'indicazione, neanche per allusione, di chi diede loro questo ordine. Incredibile. Sì, come se il governo kazako chiamasse e potesse dire: arrestami questo dissidente e mandamelo nel mio paese, e tu lo fai come se fosse un atto amministrativo, senza passaggi politici. Più due uomini che sono alle prese, che sarebbero stati poi alle prese con l'arresto di boss mafiosi, cioè non due nulla facenti che stavano lì, ma io mi domando, così, ci sono poche riflessioni sui giornali, ne ho vista una molto evidente sul Riformista, però spero che da domani i giornali si interroghino su queste stranezze giudiziarie. Sì, sicuramente. Però se mi permette, prego. Dimmi. Prego Paolo. No. Prima di finire ti dico la notizia che più mi ha colpito, perché è una notizia apparentemente di musei, ma in realtà è una notizia di geopolitica importantissima, ed è che al museo di Nantes è stata proibita, cioè impedito di fare, loro hanno quasi rinunciato, comunque l'hanno rinviata, ma sono quei rinvii che sono rinunce, e una mostra sull'impero mongolo, perché la Cina, per mandare i suoi materiali, che sono ovviamente preziosissimi, pretendeva che non fossero menzionati né Gengis Khan né la parola impero mongolo, cioè si facesse una cosa per allusione, cioè quel tipo con gli occhi a mandorla, esatto, molto cattivo e molto selvaggio, e poi l'impero di quei tipi con gli occhi a mandorla dei nostri. Ma avere rapporti con la Cina, e tanto li dovremmo avere, perché la Cina è un paese che sta venendo fuori da questa crisi virale in modo molto baldanzoso, e quindi prima o poi dovremmo fare i conti. Oggi vedo sui giornali Romano Prodi che raccomanda: abbiate rapporti più intensi con la Cina, sono da esplorare. Insomma, tutte le persone fanno finta che sia una questione di buonsenso, in realtà è la legge del più forte. La Cina sta venendo fuori da questa crisi più forte. Avere rapporti con la Cina significa subire anche, questa è l'ultima poi delle manifestazioni, subire anche delle imposizioni sul piano culturale, anche qui senza che nessuno fiati. È una vicenda, solo qualche giornale, Corriere della Sera, gli dà ovviamente grande risalto, però tutto passa inosservato. Anche dal governo francese non parla nessuno. Caro Paolo, ci sentiamo domani mattina, dopo il GR. Grazie a te. Ciao. Buona giornata, ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Io lavoro in un ente pubblico e ti posso assicurare che smart working o in presenza in ufficio, chi non lavora qui non lavora neanche in smart working, e viceversa, chi invece lavora qui lavora ancora di più smart working. Quindi queste polemiche generalizzanti e assurde mi fanno veramente arrabbiare. E partiamo così, partiamo con un'ascoltatrice che è una dipendente pubblica, non so se di un'amministrazione centrale o periferica, che ci parla proprio di questo. Lo smart working e la pubblica amministrazione. A fronte di una recrudescenza della pandemia, ebbene, dobbiamo aspettarci che inevitabilmente il lavoro da casa o smart per un pezzo della pubblica amministrazione prosegue intensamente. L'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dà la possibilità di un'estensione dello smart working, e c'è un'oggettiva preoccupazione da parte delle imprese e dei cittadini sul fatto che quelle persone che lavorano nel pubblico e che lavorano da casa o in modalità smart lavorino davvero. Fabiana Dadone, Ministra della Pubblica Amministrazione, buongiorno e bentornata. Buongiorno. E questo è il tema che affrontiamo oggi, 800 24 00 24 se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio. Le dico, abbiamo annunciato il tema intorno alle 7.50, Ministra, sono arrivati un sacco di messaggi, come potrà immaginare, dei quali alcuni dei più gentili erano: smart working e pubblica amministrazione è una barzelletta. Cosa risponde? Ma no, non rispondo assolutamente niente, per carità di Dio. Comprendo che ci siano visioni differenti rispetto a questo argomento, io rispetto anche chi ha opinioni molto diverse dalle mie. Resta il fatto che dal mio punto di vista questa modalità organizzativa del lavoro può dare una scossa alla pubblica amministrazione sul fronte della produzione dei risultati. È chiaro che durante il momento pandemico è stato necessario mettere quasi la totalità dei lavoratori in lavoro da remoto, anche perché lo ricordo che l'alternativa era sostanzialmente zero, quindi fare un lockdown anche della pubblica amministrazione io non avrei voluto, perché sarebbe stato un pessimo segnale. Quello che abbiamo fatto poi successivamente è stato, con un decreto, dare una roadmap precisa per portare il lavoro agile, quello effettivo, non quello solo del lavoro da remoto che si è conosciuto nel momento di più alto di contagi, ma un lavoro agile che prevede il co-working e il lavoro smart in tutti i suoi sensi, quindi non 5 giorni a settimana rispetto ai 7, con delle percentuali che dessero all'amministrazione una possibilità di programmarsi, e che sono state poi ribadite in questo DPCM. Ma voi siete in grado, Ministra, di misurare la performance? Perché qua il grido unanime che arriva dal mondo dei professionisti, dalle imprese, dalle piccole imprese, da chi ha contatti quotidiani con la pubblica amministrazione, dice: noi le pratiche non le riusciamo a fare, o le riusciamo a fare con molta difficoltà. Avete una modalità di misura delle performance? La stiamo studiando, perché in questo momento la normativa prevede ancora la vecchia misurazione delle performance, che chiaramente deve arrivare fino a fine anno, che è quella con obiettivi annuali che l'amministrazione stessa si dà e sulla quale si dà una valutazione. A me piacerebbe invece, e ho l'obiettivo, di dare degli indicatori molto più oggettivi e riuscire invece ad avere delle valutazioni, come ho ricordato anche in altre interviste, che siano di più breve termine, perché dal mio punto di vista, quando si fa un obiettivo e ce lo si autofissa ma a distanza di un anno, la facilità di raggiungerlo è maggiore, mentre invece se si pone una persona anche in lavoro da remoto o in lavoro agile, che poi vuol solo dire modalità di lavoro più intelligente per fargli produrre risultati, e la valutazione di quello che ha fatto si conta in numero di pratiche o in numero di risposte, e lo si fa in tempi molto più brevi, come settimanali o mensili, è chiaro che sarà diversa il tipo di valutazione e sarà necessariamente più oggettivo. Poi io non dico che non ci saranno disfunzioni, perché come ricordava giustamente l'intervento che mi ha preceduto della dipendente pubblica, le persone che lavoravano prima continuano a lavorare e lavorano anche di più in questa modalità. Il problema sono sempre quelli che invece rallentano, che in questa modalità si nota ancora di più che effettivamente non riescono a produrre, quindi possono essere meglio monitorati. Ma le cose stanno funzionando, Ministra, oppure no, a suo giudizio e dal suo osservatorio? A me sembra che in realtà non sia modificato moltissimo il tipo di lavoro, cioè la produzione mi sembra analoga. Ci sono stati dei rallentamenti che sono stati dovuti al distanziamento, alle turnazioni, anche per chi ha necessità di andare in presenza fisica presso gli uffici. E se c'è stato qualche rallentamento in qualche amministrazione è dipeso anche dal fatto che non tutti hanno un livello di digitalizzazione uguale, per cui ci sono amministrazioni che hanno già investito negli anni, anche piccole, anche comuni piccoli, che negli anni hanno investito nel digitale, che sono riuscite a fornire benissimo dei servizi anche durante la fase del lockdown totale, quindi fornendo documenti, anche semplicemente spedendoli via mail, altri che invece hanno delle difficoltà perché manca oggettivamente l'infrastruttura digitale. È chiaro che se manca la rete con la quale posso collegarmi da remoto, diciamo, però, che il sistema mostra la però facilità. Il dato di fatto, Ministro, è che in questo momento noi non siamo in grado, voi e noi come cittadini, non siamo in grado di misurare se la pubblica amministrazione sta lavorando in maniera efficiente oppure no. Non siamo in grado di misurarlo. Ma io credo che effettivamente non siamo mai stati in grado di misurarlo. Cioè, io ho apprezzato lo sforzo sulla valutazione delle performance, però in realtà è sempre stata una valutazione un po' sotto certi punti di vista, mi passi il termine, autoreferenziale, nel senso che nel momento in cui ci si danno degli obiettivi e poi ci si dà le valutazioni su quegli obiettivi, è chiaro che possono essere anche poco stimolanti se uno per raggiungerli non si dà obiettivi sfidanti, per cui il punto è riuscire a fare il passo oltre, provare a organizzare il lavoro in un'altra modalità per spingere ad essere la pubblica amministrazione più efficiente. Però è chiaro che anche questa è una sfida del futuro. Io sento tante critiche, ma è la prima volta che si applica una modalità di questo genere all'interno della pubblica amministrazione, per cui penso che spesso anche le critiche di autorevoli persone siano appoggiate più che altro su una propria opinione di come dovrebbe funzionare l'andamento della pubblica amministrazione, ma non su dati oggettivi, proprio perché è una novità che nel privato però ha dato perché dei risultati. I dati oggettivi non esistono in realtà. Senta, Ministra, l'ultima domanda, perché questo è. L'ultima domanda è, oggi il Messaggero parla di 500 milioni in più sul piatto per il rinnovo del contratto degli statali che si andranno a trattare per la manovra. Ci conferma questa cifra? Ma l'ho letto anch'io, non so bene dove abbiano preso questa cifra. C'è stata una richiesta da parte del Ministero di una cifra per la contrattazione pubblica insieme ad un'altra serie di normative, però non, in questo che momento non è? È in discussione. Che cifra è? Adesso un milione, se non erro, che era quella che è stata domandata dai sindacati, però è una fase di discussione. Io su questo non so ancora dire quale sarà il punto di caduta, perché chiaramente il governo deve fare un ragionamento che non è solo collegato alla richiesta di ogni singolo ministero. Bisogna fare una valutazione di come spendere al meglio le risorse per tutti i cittadini sul fronte. Quindi non c'è una richiesta del ministero, non c'è una richiesta del ministero al momento su questo. No, c'è una richiesta, ma io dico che non va fatta una divisione delle risorse ministero per ministero, come se non si guardasse a tutto il quadro generale, per cui le richieste è lecito che ogni singolo ministero le faccia, però poi le risorse, essendo limitate, devono essere spese con l'attenzione dovuta nel quadro generale. Ecco perché non so dire quanto effettivamente poi verrà stanziato per la contrattazione. Chiaro che le richieste vengono avanzate da parte di tutti, ma è giusto che le risorse vengano distribuite nella maniera più equa per riuscire ad accompagnare l'effettivo rilancio del paese. Grazie Fabiana Dadone, Ministro della Pubblica Amministrazione. Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro. E adesso ospitiamo un'opinione che è... Allora, poi la ministra Dadone, naturalmente anche l'esigenza istituzionale, delle esigenze istituzionali, mentre invece il professor Sabino Cassese queste esigenze istituzionali non ce l'ha. Professor Cassese, buongiorno e benvenuto, eccoci. Buongiorno. Lei nelle scorse settimane aveva detto che alla fine per la pubblica amministrazione questo giro è stato una grande vacanza, più o meno, no? Ma guardi, io non ragiono sulla mia propria opinione, ho un dato oggettivo, e cioè che il governo ha sentito la necessità di presentare dei decreti legge nei quali erano incluse delle proroghe dei termini per provvedere. Ora, come lei sa, la legge 241 dell'agosto del 1990 prevede che siano fissati dall'amministrazione dei termini alla scadenza dei quali occorre adottare le decisioni amministrative. Ogni decisione amministrativa, ogni catena di montaggio della pubblica amministrazione ha un termine, bisogna provvedere. Allora la mia domanda è: se sono stati prorogati, e se non ricordo male la cosa è avvenuta 3 volte, i termini fissati per provvedere, la pubblica amministrazione ha veramente funzionato nello stesso modo in cui funzionava prima, o invece si è fermata o ha fortemente rallentato la sua attività? Ecco, la risposta è un po' ovvia. Sì, certo, certo, è una domanda retorica, professore. Mi sembra che chi dica, che chi dice che nulla è cambiato, che l'amministrazione ha continuato a funzionare, è come se abitasse su Urano. Lei sa, Urano è il settimo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole, e quindi, come dire, un po' lontano dalle cose italiane. Lontano. Se vogliamo camminare coi piedi per terra, cominciamo col dire che ci sono alcune attività che non possono essere svolte con queste forme che vengono variamente denominate, in realtà sono forme diverse, chiamiamole genericamente telelavoro, lavoro a distanza dall'ufficio. Esempi: il custode di un museo, secondo lei, può fare il telelavoro? No, chiaramente non è smartabile, come no, dicono con questo termine, un termine professore, un termine orrendo, è smartabile, però ormai lo usano tutti. No, ha ragione, ha ragione. Sì, il custode del museo non può. Il custode del museo, no, teoricamente, lo può fare, si chiude il museo, e ecco. La persona che sta allo sportello per il rilascio dei passaporti, no? C'è delle persone che hanno bisogno del passaporto. Il passaporto, fino a che non verrà organizzato un sistema Amazon del settore pubblico in Italia, che prevede alle consegne, come può venire rilasciato? Il geometra che ha bisogno della certificazione dell'autorizzazione, può chiederlo senza andare all'amministrazione? E l'amministrazione è organizzata per fare tutto questo? Ecco, io quindi sto sottolineando due cose. Primo, che il bilancio che noi dobbiamo fare dell'esperienza finora compiuta è un bilancio fondamentalmente negativo, che dobbiamo accettare perché, secondo me, l'amministrazione era impreparata a questo evento e quindi ha fatto quello che poteva fare. E il problema è che adesso non siamo più impreparati e quindi quelli che parlano di emergenza oggi fanno un po' sorridere perché l'emergenza c'è stata, perché non è potrebbe più esserci, non è ma più una cosa che emerge è una cosa che viene nuova in un certo momento. Mentre questo non ci coglie impreparati, va bene? Sì. E allora la mia domanda è: ma il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha organizzato le cose in modo da fare, da evitare quello che è accaduto, e cioè la proroga dei termini per provvedere, che è una specie di sanatoria, è dire... si ferma tutto, si blocca tutto e si decide dopodomani quando si riapre. Ecco, questo secondo me è il punto più importante. Sì, sì, come ha sentito professore, come ha sentito professore, la ministra Pisano dice di sì. Io poi non l'ho presentata dovutamente, però il professor Cassese lo conoscete tutti, docente della School of Government della LUISS, è stato ministro della Funzione Pubblica nel governo Ciampi, giudice costituzionale. Vorrei sentire qualche ascoltatore. Carlo da Napoli, buongiorno Carlo. Buongiorno, guardi, io chiamo da Caserta. Da Caserta, prego. Senta, la mia esperienza, io sono un geometra, il catasto di Caserta praticamente è chiuso dalla fine di febbraio, inizio marzo, a 15 giorni fa, poi non so perché non mi ci sono più recato. Ha smesso di andare, Carlo, ha smesso di andarci, ha detto basta, a questo punto non vado più al catasto, tanto è inutile. Addirittura mi hanno dato due prenotazioni fatte con il sistema online, due volte sono andato, il catasto era chiuso. Mi hanno detto che c'era una questione di appuntamenti dati in modo errato dal sistema, però non mi hanno mica comunicato che sarebbe stato chiuso e quindi io non sarei dovuto andare. Numeri di telefono affissi alla porta a cui non risponde nessuno. Ovviamente, certo. Indirizzi mail a cui fai qualche istanza, qualche domanda, non risponde nessuno. Questi lavorano, sono in vacanza a casa probabilmente. Grazie Carlo. Stefano da Roma, buongiorno Stefano, rapido se riesce. Sì, da Bologna intanto. Da Bologna, oggi è così, Carlo era da Caserta, Stefano da Bologna. Vabbè, sì, prego. La mia esperienza in quanto commercialista, per cui agenzia delle entrate, tutte le mattine che uno vuole andare all'agenzia delle entrate oggi ci saranno almeno 3 ore in fila. Avevano un bellissimo servizio di prenotazione online, di appuntamenti per varie tipologie di atti che si devono presentare. Sì. Il 90% non ti danno l'appuntamento. Quindi cioè, è una situazione veramente insostenibile, nel senso che è bellissimo lo smart working, però ci sono, come diceva l'ascoltatore di prima, se devi chiedere un codice fiscale non te lo fai online. Sì. Devi andare là fisicamente, se devi discutere una pratica, un qualcosa in particolare, lo devi far là e non se lo riesci a fare. Quindi è tutto, lei dice Stefano, è tutto fermo. Abbiamo anche Stefano, mi è chiaro, Stefano da Roma e poi torniamo al professor Cassese. Stefano, prego, buongiorno. Buongiorno, anche. Niente, io do una testimonianza di questo smart working. Io vengo 18 anni dalla pubblica amministrazione, un ministero. Da 10 anni sono un dirigente apicale di un comune medio-grande, sono 2 realtà completamente diverse. Nello Stato lo smart working ci sta benissimo, ma nel comune, dove io devo dare risposte dirette, lo smart working è inapplicabile, perché se un cittadino viene e mi chiede una scia o una ditta mi chiede un documento urgente, io gli dico aspetto che il mio funzionario sia smart. Sono 2 realtà completamente diverse. Diverse. Anche, la pubblica amministrazione. Anche in termini di capacità organizzativa, professor Cassese, c'è tra amministrazioni centrali e periferiche c'è il rischio di un vero abisso e potrebbe essere il grande tema dei prossimi mesi. Che dice? Beh, guardi, ovviamente le cose che abbiamo ascoltato danno la prova di quello che io avevo prima detto. E cioè il rapporto tra Stato e cittadino non può interrompersi improvvisamente con delle persone che stanno a casa e dei cittadini che vanno in ufficio e trovano l'ufficio chiuso. Però non sottovaluterei il fatto che mentre nel comune si nota più facilmente questo disfunzionamento dell'amministrazione, questo malfunzionamento dell'amministrazione perché il cittadino si aspetta un certo servizio, un certo certificato, una dichiarazione e così via quel giorno, nell'amministrazione centrale poi invece le conseguenze non si vedono subito ma sono molto più grandi, perché lei avrà, che le posso dire, un ministro che non c'ha i suoi collaboratori e i collaboratori del ministro che non sanno a chi santo rivolgersi perché tutti i dipendenti del ministero non sono presenti e gli archivi oggi sono archivi fondamentalmente cartacei e quindi lui non può chiedere ai dipendenti che stanno a casa dei documenti che stanno negli archivi cartacei che invece stanno nell'ufficio. Vede, quindi come dire, quel certo ottimismo che trapelava nelle parole della ministra Dadone, io non riesco a condividerlo perché si capisce chiaramente che come dire, non è stata fatta una riflessione sufficiente su quali sono le misure organizzative per affrontare un sistema nel quale le persone non stanno in ufficio ma lavorano in luoghi diversi e sparpagliati sul territorio. Aggiunga altre questioni importanti, e cioè che il telelavoro deve sempre accompagnarsi con dei momenti di riflessione collettiva. L'interazione personale in molti casi è indispensabile. Aggiunga un'altra cosa, che la nostra società è organizzata in modo tale da avere i dipendenti pubblici o privati in ufficio e quindi che intorno agli uffici sono nate e si sono sviluppate tutta una serie di strutture che servono anche all'ufficio. Mi potrà dire che non serve il bar, ma certo che serve. No, ma è chiaro, professore, quello poi è il tema, è il tema più largo. È un'autentica rivoluzione e dobbiamo tener conto del tessuto della società che subisce dei danni enormi da questo passaggio improvviso, che quindi io penso debba essere organizzato, governato, da persone che ci riflettano e non vivano sul pianeta Urano, da un lato, e dall'altro dovrebbe essere organizzato in modo tale da non avere permanentemente le persone assenti dall'ufficio, sì, perché questo chiaramente, sì, non è funzionale. Sì, tu, tra l'altro, tutte le teorie sullo smart working dicono esattamente questo: bisognerebbe alternare ufficio e appunto lavoro smart. Io la ringrazio, professor Cassese, per essere stato con noi e averci accompagnato in questa chiacchierata anche con gli ascoltatori. Molti ci scrivono, alcuni dicono: guardate, ma nel mio comune funziona tutto perfettamente. Ma lo so, è una situazione a macchia di leopardo, dipende anche dai singoli come si sono organizzati. Ovviamente. GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6.30. Ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.